si aprono i microfoni alle 26 minuti primi, inizia l'appuntamento serale, il terzo di questa settimana, essendo oggi mercoledì 11 di giugno, con Marco Gravelli, Linea Rock, qualcosa fischia, perché non sono solo questa sera. Come promesso, il DJ Ariele è qua con me. Per chi non conosce il DJ Ariele, beh, è giusto, perché non abbiamo i soliti consueti ascoltatori che ci portiamo dietro da anni e anni, ma anche, si spera, una nuova fetta. Siete su Radio Lombardia, la voce di Marco Gravelli. Tra breve vi farò decisamente ascoltare, sentire la voce del DJ Ariele. No, però volevo la presentazione, quella bella che stavi facendo. Allora continuo, vai, allora posso andare. Chi è il DJ Ariele? Sì. Beh, con la denominazione di DJ Ariele, è uno speaker radiofonico, sì, anni e anni di esperienza, eccetera, da Radio Lupo Solitario, sì, sì, sì, a Rock FM. Questa sera mi ospite, poi sotto altre vesti, musicista più o meno affermato nel mondo del rock and roll o del punk rock. Più o meno affermato, va bene. Sì, sì. Con la formazione dei Pay. In quel caso, però, ha un'altra denominazione. Non è il DJ Ariele, ma Mr. Granchio. Sono Granchio, un artista d'avanguardia, ecco. Okay. Questa è la mia definizione di quella oggi, nuova? Ma... Ah, va bene, non l'avevo ancora preso nota. Un uomo che non era riuscito mai a sentire Linea Rock, se non che è due giorni che me la sto ascoltando a manetta. E ti faccio saltare la cena. È il mio programma radiofonico preferito. Davvero? In assoluto. Ti ringrazio. Allora, giustamente, sei il primo della lista ad essere invitato. Do la buonasera allora a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Lombardia, soprattutto la zona di Varese. Perché tu arrivi da quella zona. Sì, questa era... sera, mamma, eccetera, sono tutti pronti, sintonizzati. Sai che non l'ho avvisata. Mamma mia. C'è tempo. Ne abbiamo di tempo. Call. Esatto. Allora, i contatti. La mail diretta@radiolombardia.it, l'SMS, se vuoi leggerlo tu. Ti sentivo in questi giorni che non me lo stavi memorizzando, eh? Te lo dico io, 339-266-3825. Perfetto. Allora, i consueti saluti agli amici dell'Urlo Box che si sono già fatti sentire. Meno male che questi PC non hanno l'audio e l'Urlo Box è praticamente una chat all'interno del forum di rockfamily.it, che sono assidui nostri ascoltatori e ci seguono per tutta la puntata. Li salutiamo, li ringraziamo. Io mi sono presentato stasera permettendomi di uscire dalla mia valigia dei dischi un paio di pezzi da chicche. Le ho già sistemate. La prima la vogliamo ascoltare insieme? Secondo me l'inizio suonava così, che siamo ancora sulla strada. Allora vai. I can't carry your face. ancora una volta insieme sulla strada, eh? Questa è un po' la citazione del titolo di questo motivo storico dei grandissimi Can Edit, che subito mi portano a mente locale, al buon Fabio Treves, che questa sera è in Milano da un'altra parte, poi spiegheremo che cosa sta facendo. Blues in Idro. Blues in Idro, un festival blues che lui cura personalmente. Avremo modo di parlarne durante la puntata e magari anche la prossima settimana, lunedì o martedì, con lui in studio per presentarlo. È un vero piacere essere tuo ospite ed è un onore averti in regia. È in effetti una cosa strana. Mi concedo di essere io il tuo tecnico, perché ho appreso in poco tempo anch'io questo nuovo software, nuovo per me il software, quindi figuriamoci se ci mettevi tu le mani. Io, Marco, avrei uno scoop per te questa sera. Ah, fino a qualche giorno fa conducevo un programma radiofonico con un artista bolognese che si chiama Roberto Fricantoni, degli Schiantos. Esatto, questo lo sapevo. Il ragazzo, che conosceranno tutti, gli Schiantos, chi può non conoscerli, è un poeta. E qualche giorno fa ha avuto un piccolo incidente, è caduto da cavallo e si è spaccato un paio di costole. Però l'ho sentito oggi, era in forma e ci teneva a salutare tutti quanti, ringraziare dell'affetto, patapim e patapam. Quindi sarà anche lui prossimamente on the road. Sì, lui è, sai, lui è sempre nel fondo del barile che era. Raschia. Però, se posso dirtelo, questa sera aveva un appuntamento al Dams di Bologna, perché c'era un ritrovo di distinti del Dams, cioè di persone laureate. Dams è una scuola, se non sbaglio. Sì, sì, all'Università d'Arte bolognese, di personaggi già laureati che si sono distinti nella vita. E Roberto Fricantoni, non si sa perché, ma si è distinto. Si è distinto. Non si sa per cosa, in effetti, l'hai detto anche tu. Invece chi si è distinto in un paio di band è questo signore che si chiama Jack White, con i White Stripes e poi con i suoi narratori. Questi la raccontano giusta, si chiamano The Raconteurs, il nome della band. È già arrivato da poco questo secondo album e questa non è niente male come canzone, si intitola Salute Your Solution. So listen to me, sister, listen, maybe you can help. I think I give a lot of fathers my consideration, but not for me, I always send them for someone else. Why do people always seem to just be on vacation? What do I get from it? I don't get anything at all. I'm like a trash can holding all the information, and every single time I need me feeling to be tall. po' di musica fresca e questa sera un po' di musica allegra anche per il personaggio che abbiamo con noi naturalmente qua. Garavelli giovane! Via! Allora salutiamo gli amici che ci seguono dalla webcam, che per la prima volta ti vedono in camicia e non in maglietta, eccetera. Dobbiamo qui adesso bisogna stare attenti anche al look. Anche la giacchetta se vuoi. Bisogna stare attenti al look, dobbiamo prendere uno stilista. Anzi, io ho portato la giacca apposta, mi hanno detto Riele vai a tele a Radio Lombardia. Un'altra cosa. C'è la webcam, devi... Quindi devi essere una giacchetta, per esatto. Bravo. Vedo che il compitino l'hai eseguito bene. Sì. Allora, un po' di musica italiana. Questa ci vuole in assoluto, anche perché è una delle band che noi a livello italiano amiamo più di ogni altra cosa. Una delle migliori rock band tra le top 4 in Italia, piazziamo sicuramente loro. Sono all'estero in questo momento, se lo stanno meritando il successo, anche in America, andranno a New York tra breve, sono a Toronto in questi giorni e poi ritorneranno di nuovo in Italia. Stiamo parlando naturalmente degli After Hours, che abbiamo con noi con l'ultimo lavoro che ci porta a parlare proprio della città di Milano, nel titolo. Questa è Riprendere Berlino. E cambia il tuo destino, non sarai Grandi artisti in linea rock anche in questa serata del mercoledì, Foo Fighters con uno dei tanti singoli pubblicati da questo loro ultimo lavoro, erano le note di Long Road to Ruin. E allora, caro DJ Ariele, tutti aspettano, tutti o per chi conoscono bene il tuo personaggio, che oltre alla recente cresta rossa che stai esibendo in webcam, però ci sono gli attrezzi del mestiere. Sì, a cosa ti riferisci, Caravelli? Lo vedo lì. A Mr. Trombetta. Esatto, è tutto da quanto? Un paio di giorni che quando viene Ariele, mi raccomando, porta fortuna. Allora, la strombazzata. Spiego ai radioascoltatori di Radio Lombardia che non sanno che cosa è l'entità Mr. Trombetta. Mr. Trombetta è una trombetta che potete vedere in webcam in questo momento, che ho usato per tanti anni perché mi accompagna come amico immaginario. Non so se tu, Caravelli, da piccolino ce l'avevi un amico immaginario. No, non l'ho mai avuto. Non hai mai avuto un amico immaginario? Ci ho mai pensato, veramente, sì. Io invece ne avevo tanti. Uno di questi era Mr. Trombetta. E allora, visto che in questi giorni mi hanno richiesto centinaia di strombazzate, un po' tipo ex voto, per favore fammi, io non vorrei farla comunitaria a tutti loro, ma soprattutto vorrei strombazzare a tutti gli altri radioascoltatori di Radio Lombardia dicendogli questa cosa. Da qualche giorno su questa radio c'è questo programma che va in onda dalle 20 alle 21:30 di questo personaggio losco che si chiama Marco Caravelli. Grazie. Che passa della musica che gli piace. Questa è una cosa che nelle emittenti radiofoniche non è semplicemente da trovare, è una sorta di regalo. Quindi anche se siete un po' lì titubanti, ma non lo so se io sono un vero rocker oppure no, voi fidatevi del Caravelli e di Mr. Trombetta. Quindi questa strombazzata è per tutti voi che state entrando nel mondo del rock and roll. Il rock and roll è una festa come questa qua. Yeah. Abbiamo raggiunto le 20:39 minuti primi, siete su Radio Lombardia in compagnia di Marco Gravelli, del DJ Ariele, nello spazio di Linea Rock. C'erano con noi gli Offspring e loro sono tornati belli carichi, devo dire, con questo nuovo singolo. Attendo l'album per dare un giudizio completo sul loro nuovo lavoro. Invece, a proposito di lavoro, ti sei dimenticato di salutare Mister Trombetta, scusa. Io lo devo salutare. Dovresti, okay. Sì. Scusami, è il mio ospite, c'è anche Mister Trombetta, hai ragione. Chiedo venia. Saluta. Grazie. Invece, a proposito, mi chiedono cosa stai facendo in questo periodo. Cosa se sei qui, non sei a Ibiza, no. Non sei in qualche luogo di villeggiatura. No. In questo momento, così da speaker disoccupato, sto facendo l'artista d'avanguardia e sto scrivendo. Sono in un momento di scrittura abbastanza illuminato. Ti pongo questa domanda, quindi sì. Scrittura per composizioni nuove di canzoni? Guarda, entrambe oppure le cose. Un libro? Entrambe, no, per un libro sto ragionando con Roberto Fricantoni. Uno dei miei sogni nel cassetto che non ho ancora realizzato è firmare un libro con Roberto. Quindi... Di poesia, racconti, narrazione? Guarda, sai. Questo non ti posso dire nulla, se no mi rubano l'idea. Sicuramente ci piacerebbe raccontare l'esperienza che abbiamo vissuto col programma mattutino che abbiamo condotto, con le patenti da vero rocker, con i test attitudinali, con le stupidate che facevamo in pane, burro e rock and roll. In realtà sto scrivendo programmi radiofonici, credo di essere l'essere umano in Italia con più programmi radiofonici pronti in tutte le ore della giornata, oppure localizzate ne in... ho veramente di tutti i colori, quindi lancio un appello all'editore di Radio Lombardia, ma a qualsiasi editore sintonizzato in questo momento: se avete tanti soldi da spendere, io ci sono. Un vero creativo. Un creativo. In realtà con Mr. Pinguino, invece, che è il mio collega della Punk Rockers Autoproduzioni, con la formazione Pay stiamo preparando un lavoro nuovo. Hai citato un nome, Pay. Allora citiamo questa canzone, che non è dei Pay, ma Pay a Radio Lombardia! Sono riadattati, un grande motivo, un grande successo per la formazione dei Ramones, rifatta dai Pay, è Pet Cemetery. All around, and in the night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried. base elettronica questa dei Pay, è un mix tra il rock e l'elettronica con la versione di Pet Sematary. Sì, quindi siamo una formazione di punk rock varese 8 che per un periodo ha avuto questa fase che chiamiamo E80, che sarebbe Elettro 80, nella quale, come facevano i CCCP qualche annetto fa, suoniamo in due, un basso, una chitarra e una batteria elettronica, okay, con poi Operaia del Rock and Roll, Ricky Premi e Cotillon come sempre ai nostri concerti. Per quanto riguarda il lavoro che stiamo preparando, invece, volevo far sapere, visto che molti me lo chiedono, che non sarà una rock opera. Ecco, stavo chiedendoti, sarà un altro concept album? No, questa volta singole canzoni. L'ultimo disco che abbiamo dato alle stampe, Federico III, era un concept album, dedicato, quindi una storia intera dedicata a Federico III. Questo invece no, sarà un album di canzoni, siamo sulla ventina di tracce che stiamo lavorando. Doppio CD, quindi. No, le scassiamo, vorremmo fare un disco di 11-12 tracce, una cosa di questo tipo, dipende insomma, dipende. Non è poi facile dettagliarle, ma io e Pinguino stiamo cercando di gestire la situazione. Mentre per quanto riguarda l'Elettro 80, il brano che avete appena sentito, vi ricordo che è scaricabile gratuitamente da punkrockers.it, che è l'etichetta di autoproduzioni della nostra formazione. Io vado allora, come in apertura abbiamo citato il fatto del buon Fabio Treves, che questa sera inaugura insieme al Comune di Milano l'Idroscalo in festa con la nuova edizione 2008 di Blues in Idro, quindi il blues alle masse, come dice lui. Questa sera si apre alla Villetta, che è situata vicino all'Idroscalo, con una delle più storiche formazioni del rock blues inglese anni 70-80, Nine Below Zero. L'ingresso è completamente gratuito, poi ci saranno tantissime altre date che di sera in sera vi segnalerò, sino ad arrivare al grande John Mayall addirittura il 9 di luglio. Questa per la manifestazione Blues in Idro. Visto che siamo in tema di blues e loro nascono come una band blues, oggi è il compleanno di Frank Bird, che a discapito del cognome, che Bird se non sbaglio è la barba, giusto? E lui è uno dei tre ZZ Top, due hanno delle barbe lunghissime, non dico chilometriche ma lunghissime, e lui è l'unico senza barba e si chiama Bird di cognome. Nasce quest'oggi quindi Frank Bird, tanti auguri a lui. 11 giugno del 1949, questi sono proprio loro con La Grange, ZZ Top, Blues alle masse. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm on. se fosse per noi, noi sì, rockeggeremmo tutta la notte, come cantano appunto i 30 Special, Rocking Into the Night. Anche perché questo era l'ultimo, il secondo compleanno, dopo quello di Frank Bird e ZZ Top. Nel 52, sempre l'11 di giugno, permettetemi di segnalarlo, nasce Donny Van Zandt, che è stato il leader di questa formazione di rock sudista che quasi nessuno programma, perché arrivano dal sud degli States e non dal sud dell'Italia. E ci voleva Linea Rock a farvi proporre, presentare questi 30A Special. Diamo ancora una volta il benvenuto al DJ Ariele. Siamo insieme in Linea Rock, siamo con l'appuntamento proprio consueto di Linea Rock, che va in onda ogni sera dalle ore 20 alle ore 21:30, quando? Beh, dal lunedì al venerdì qua su Radio Lombardia. Sono veramente felice di essere qua questa sera a testimoniare ancora questo affetto gigante che c'è nei confronti, nei nostri confronti, da parte della gente che scrive via SMS, via mail, in molti che scrivono che gli manchiamo al mattino. Allora volei, se me lo permetti, fare una cosa che a Radio Lombardia non è mai successa, essendo io un musicista. Mi licenziano già tra 5 minuti? Devo aver paura? No, okay. Sono soltanto un artista d'avanguardia, te lo ricordo. Se di mattina utilizzavo uno strumento che si chiama kazoo, sì, è vero, per suonare, rifare delle cover, sto lavorando, grazie anche a degli amici di rockfamily.it, al brevetto di questo nuovo strumento. Il nuovo strumento è una scatoletta di caramelle, che ovviamente non posso citare perché, certo, sarebbe uno sponsor, e cioè ce ne fai vedere la webcam? No, nemmeno la webcam. Però potremmo trasformarla in un suona così. Ci tolgo la base. Ci devo lavorare un po', prova. Potrebbe far così. Fa una nota sola. Una sola, questo è... E il fiato è difficile tenerlo, No, quello potrei riuscire a fare. Fai. E questo si chiama zigù, anziché kazoo. Questo strumento. O zigulofono, lo stiamo decidendo. Dovresti brevettarlo, a mio avviso, perché qualcuno ti potrebbe portare via l'idea. Lo farò. Intanto sono il primo essere umano ad aver suonato uno zigù. E allora andiamo con una grande canzone che... sì, adesso questa andiamo a proporre. Questa è per gli amici del mattino. Esatto. Preparatevi un CD se al mattino non sapete cosa fare, con Get It While You Can di Janis Joplin. Lo masterizzate, domani mattina ve lo mettete nell'autoradio e vi dite: questo me la sta passando l'Ariele. Questa vi dà la carica giusta, la grande voce di Janis Joplin. In this world, if you bring the papers down, you know everybody's fighting on with each other. You got no one you can count. Gonna give you some love and affection. I'd take it while you can. Taking a gamble on a little song. E lui ci ha provato all'epoca a volare, il buon Icaro. Flight of Icarus, Iron Maiden. Questa è l'ultima tirata, gli ultimi 20 minuti sino alle 21.30 per l'appuntamento di questo mercoledì sera su Radio Lombardia con Marco Gravelli, il DJ Ariele in diretta. Naturalmente, teniamolo a precisare, siamo esclusivamente live in diretta con Linea Rock. Io ci tengo a presentare agli amici e alle amiche di Radio Lombardia Marco Gravelli, il re del metallo italiano. No, no, non devi dire così. Mi richiedono troppo metallo. Non possiamo. Gravelli c'ha per questo ora. Vizietto qua, insomma. Chissà quante ne hai da raccontare sul metallo. Io ne so anche un po'. Beh, che non si possono dire a quest'ora. Si può. Beh, di Bruce, ad esempio, sì, dai. Di Bruce Dickinson, cioè, era il cantante degli Iron Maiden. Che parla del cantante degli Iron Maiden come di Bruce. Bruce l'ho intervistato almeno 5-6 volte. Quindi una delle. Parti in Germania. Erano le 3 del mattino, di fronte a 6 birre bevute da lui. Io mi sono fermato alla prima. Lui continuava a raccontarmi la storia della sua vita. Gli ho detto: Bruce, vado a dormire. Grazie, ci vediamo domani. È finita così. Ricordiamo che non stiamo parlando di Bruce Lee, ma di Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden. Esatto, perfetto. Ma qui chiedono ai vari ascoltatori che. Devo dire, ringrazio per tutti gli sms che sono giunti. È difficile prender nota e salutarli, quindi lo faremo domani. Comunitaria. Chiedono che cosa. C'è qualcosa di attinenza ad un autobus che deve partire? No, ma te ne devi andare, allora, devi prendere un autobus. Così, visto che sono in questa fase di disoccupazione, sono diventato un blogger. Hai tempo di dedicarti al mondo di internet. Sai cos'è un blogger? Vanno di moda adesso. Cioè, c'è gente che si presenta dicendo: io sono un blogger. C'è chi ha il MySpace, c'è chi ha il suo blog. Sì, io sono un blogger. Nel mio blog ieri ho scritto che mi era venuta l'idea, ho iniziato pensando a un programma itinerante, pensavo di farlo da una carriola, ma era da un monopattino, non bellissimo. Siamo passati a una macchina fino a quando ho trovato un pullman su internet e ho pubblicato la foto di questo pullman dicendo: voglio comprarlo. Ah, quello che ho visto, mi sa che arriva da Londra, è nero con una scritta bianca che cita il nome di una radio. Sì, cita il nome di una radio. Appena diventerò ricco comprerò questo pullman e mi comprerò una radio. Ok, quindi passeranno ancora secoli, mi sa. Non è detto, metti che la carriera con lo Zigu funzioni. Funzioni, va bene. Questa è proprio dedicata a questo pullman magico con una formazione magica, anche se qui andiamo alla fine degli anni 60, inizi anni 70, una delle migliori rock and roll band al mondo, dall'Inghilterra, The Who. Get on the bus that takes me to you. Every day just to drive to my baby. Come and send 6 months each day. E sono le buone vibrazioni di Linea Rock su Radio Lombardia. Scusa, ti stavo rubando il lavoro. No, vai, vai, fai un po' di annunci, anche perché Magic Bus. Bravo. La scuola mi sa che è finita o è in arrivo, addirittura d'arrivo, reminiscenze. Una volta si chiudeva, anzi è già finita settimana scorsa se non mi sbaglio. Una volta si chiudeva proprio con la scuola a fine maggio e si ritornava ai primi di ottobre. Sì. Erano bei tempi, 3 mesi di vacanza. Adesso hanno un po' abbreviato queste tempistiche, già a settembre si riparte. Però con la prossima band. Ah, ho capito, chiedevo, ma dove vuole arrivare? Guarda, sarà il titolo. Sarà l'aria condizionata che gli sta dando di matto? No. Guarda il titolo del prossimo brano. Ho visto. E allora, visto che è una band che conosci, visto che vuoi fare il DJ, te la faccio annunciare. Te la faccio annunciare. Signore e signori, su Radio Lombardia, The Ramones con Rock and Roll High School, in Linea Rock con Marco Garavelli, ospite l'Ariele e Mr. T. Con Rock and Roll High School, scuole che se ne sono andate, invece voi rimanete ancora sintonizzati su Radio Lombardia, rimanete con Marco Gravelli e il DJ Ariele con Linea Rock. Abbiamo ancora tempo per una decina di minuti, un paio di brani, poi saluteremo tutti, non proprio tutti, perché se dobbiamo citare tutti i nomi degli SMS non so come fare, è impossibile. Le mail il giorno dopo rispondo. Ti ci devi abituare, Gravelli, si chiama visibilità. Ok, devo prendere nota. Ci vuole un altro assistente. Eh sì, guarda, ci vuole un altro assistente. Avete bisogno di un assistente, io vengo via poco, come diceva un amico. Un nostro amico, eccetera. Capita. E quindi bisogna segnare tutto quanto. Segnatevi anche il numero di SMS, 339-266-3825. È già quasi tuo, lo sento, lo stai prendendo. Ma no, lo sto leggendo, A memoria non ce la faccio ancora. Lo stai già interpretando. No, non ancora. Per non imparare dei giochini di memoria per fartelo imparare. Dovresti collegare ogni numero a un'immagine. Lasciamo perdere. Peccato che non c'è. Io so qual è la tua immagine. Ti stai dimenticando di citare, visto che i minuti non sono molti. Che cosa? Nelle tue excursus allora, a fumare. Uno degli obiettivi per i quali sono un sacco di gente mi ha detto: senti, vai là, controlla Gravelli cosa sta combinando, dove è andato a finire, cosa sta succedendo, no? E ho scoperto una cosa. Nella sede, proprio a 6 metri di fronte alla sede di Radio Lombardia, c'è una casa che viene definita in una certa maniera, non posso non dire si può in questo momento. Attenzione. Però diciamo che viene affittata solo ed esclusivamente a modelle. Questo implica il fatto che qua sotto ne passano ammazzi come gli asparagi. Hai capito perché alla 1 io sono già qua, anche se il programma inizia alle ore 8? Quindi faccio sapere a tutti che Garavelli sta in una botte di ferro. Vedi, stiamo tranquilli. Allora un po' di rock and roll anche per loro. Yeah. e di ritmo ce n'è ogni sera da lunedì al venerdì dalle 20 alle 21.30 con Linea Rock, con il sound in questo caso degli Helicopters. Purtroppo siamo quasi agli sgoccioli, però ci concedono un paio di brani, caro DJ Ariele. Quindi, prima dei saluti, l'ultima frase che vuoi lasciare, anche perché tu apri. Stai chiedendo ufficialmente. No, l'ultima frase. No, non pensare a quello. Il congedo devo prepararmelo. Quello te lo devi preparare. Però da questa sera aprirai per questi due mesi, sì. Giugno e luglio. Il mercoledì l'abbiamo sdoganato anche quello. All'ospitata. Mi ha ogni fatto piacere, esatto, aprire la strada, essere qui. Sono andato in parte in ordine alfabetico, in parte legato al vecchio palinsesto. Esatto. Sì. E quindi settimana prossima però ritroveremo il DJ Edo. È stato un piacere essere qui e l'impressione più forte che ho avuto in questi due giorni mentre ti sentivo da casa, oltre alla stranezza di poterti sentire da Gallarate, dove finalmente posso udire la tua voce, è che mi sono trovato a fare una cosa che credo non avessi mai fatto, cioè di star lì in ginocchio sotto il mio stereo a cercare di capire dove era Radio Lombardia con l'antenna, a spostarla perché dovevo beccare il Garavelli, ed è una cosa che mi ha fatto ricordare quanto amo questo mezzo di comunicazione, la radio. È un piacere essere qui a festeggiarlo. Dai, allora ancora un brano, poi ci saluteremo e lasceremo il tutto insieme ai Beatles. Questo lo possiamo già preannunciare. Non dirlo, già l'hai detto, era la sorpresa. Hai che volevi la carta. Vabbè. Let's get it started. I feel like there's so much to rearrange. Come on, I need your help with this. Why don't we get it started? But the kiss, if memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can see that. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it, I can feel it coming, I'll begin it all at once. I can feel it, I can feel it, beginning all at once. I can feel it, I can feel it, I can feel it coming, I'll begin it all at once. We get along well, we talk a lot. I made some promises, I guess that I totally forgot. Forgive me, my mind is bare, I swear. Feels like somebody's thrown it down the stairs. It's not good enough. You have to say that you should be more. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it, beginning of the twist. I can feel it, I can feel it, I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it, I can feel it. Questo è l'inizio, dicono loro, è l'inizio del twist, un ballo che io mi cimentai perché sono vecchietto, no. Però dai, un po' di twist l'ho Hai fatto. Hai mai ballato il twist? Twist, quello che si non abbassa, ci si scende, non eccetera. Ci sto credendo. Sì. Non dovevi dire. Anche il rock and roll, quello quasi acrobatico. L'ultima volta mi è scappata la tipa, si è finita sotto il tavolo. E col limbo invece come stai? No, messo? Limbo rock no, quello non ho mai provato. No, quello non ci siamo. A proposito, saluto la Claudia che sta lavorando in uno dei vari concerti, anzi non sta lavorando, ormai è lì nell'ufficio ed è in chat anche lei nell'urlo box di RockFamily.it. Claudia, quando è prevista la sua ospitata? Guarda, io gli ho scritto la mail, non mi ha risposto, quindi abbiamo già un calendario con settimana prossima Edo, l'altra settimana Good Rockin', quindi avremo Mr. Faulisi e poi aperto, luglio aperto. Beh, vedo che stai in una botte di ferro. Sono a posto? Insomma, ospiti ne hai, insomma, non sì, ti mancano. Non mi mancano. Molto piacere. Siamo arrivati alla fine, però. Eh? È andata, mi dispiace, spero di risentirti. Ah, io ti risentirò prestissimo, perché domani mi sento ovviamente Lina Rock da Gallarate. Grazie. E ti ascolto in Urla Box. Saluto tutti gli amici che mi stanno scrivendo in questi giorni e che non vedono una risposta. Non sono cattivo, siete in troppi. Sono veramente in tanti, quindi ringraziamo tutti gli amici che anche questa sera hanno contribuito mandando mail, mandando SMS. Continuate a farlo anche nei prossimi giorni, continuate a seguirci. Una buona serata, noi andiamo a cena a questo punto. Io mi concederei così, la nicchia vincerà. La nicchia vincerà, e allora vai, Beatles. Ciao ciao a tutti! She don't care.